La classifica dei 20 dischi più trasmessi della settimana su CRM Happy Radio. Ciao bella gente, bentornati in un altro appuntamento qua in diretta su CRM Happy Radio con Speedy Top, la classifica dei 20 brani più ascoltati durante l'arco della settimana. Ma voglio subito salutare il grandissimo Antonio Glorioso alla regia, poi salutiamo anche alla parte tecnica quel gran travestito di Marco Nicolosi. Lo chiamo travestito perché c'è anche un perché. Lunedì scorso, quando sono rientrato da Milano dopo qualche giorno che ero fuori, sono andato a una festa privata in un locale qua di Cefalù, che è La Caverna, dove il nostro caro Marco Nicolosi insieme ad Antonio avevano organizzato un party in maschera. E voi direte, fino a qua nulla di strano, perché era anche carnevale, ci sta. Bene, niente di strano che il caro Marco si era tinto i capelli da una parte rossi e dall'altra parte verdi. Il bello era che il colore non andava più via. Infatti il caro Marco si è dovuto rapare la testa, infatti adesso c'ha il taglio tipo moicano praticamente. Però sai Marco, ti devo dire che ti sta anche bene, sai? Però se fai così riesci ad andare in bagno. No dai, a parte gli scherzi, stai benissimo. Però quel verde ti stava anche bene, anche il rosso ti sta bene. Sembravi un semaforo, se ti facevi la faccia gialla guarda eri uguale. Bene, benissimo, voglio ricordarvi anche i numeri per potervi mettere in contatto con noi. Ci potete naturalmente guardare in streaming direttamente dal nostro sito su www.crmhappyradio.it, dove ci potete anche inoltrare un messaggino direttamente dal sito, altrimenti un sms al 335 56 37 251, oppure ci potete anche telefonare allo 0921 92 32 92, altrimenti sulla nostra pagina di Facebook ci trovate sotto il nome CRM Happy Radio. Ci mettete un bel mi piace oppure ci mandate la richiesta di amicizia e noi vi aggiungiamo, e di conseguenza potete chattare direttamente col sottoscritto, tempo permettendo, perché comunque durante la diretta c'ho sempre un sacco di cose da fare, quindi naturalmente appena due secondi vi rispondo in chat. Bene caro Antonio, io prima di partire con la nostra classifica che facciamo ogni settimana vorrei dedicare un minutino ad una persona che purtroppo non c'è più, è venuta a mancare pochi giorni fa, poche settimane fa, insomma parliamo di Whitney Houston, una grandissima artista. Non ho potuto fare prima questa dedica perché comunque io non sono andato in diretta perché ero a Milano, poi c'è stato il carnevale di mezzo, quindi non l'ho potuta fare. Però voglio sinceramente dedicare questa canzone a tutti i suoi fan, perché è stata una donna, un artista che con la sua voce ci ha fatto sognare e ci ha regalato veramente tante tante tante emozioni. Quindi questa Whitney è tutta per te e io ti saluto e ti mando un grande bacio. I wanna dance with somebody. I'm questa era la grandissima, lei, Whitney Houston, con Wanna Dance With Somebody, una canzone che veramente ha fatto sognare milioni di persone in tutto il mondo. È stato uno dei primi successi di Whitney. Dopo lei è uscita con il film The Bodyguard, dove c'è stata anche l'altra canzone che ha avuto un successo ancora più grande, ma questa è veramente una degli esordi delle canzoni di Whitney. Bene, adesso direi che possiamo entrare nel clima della nostra classifica. Ormai, anche parlando di clima, devo dire che si sta avvicinando anche la primavera, caro Antonio, perché vedo con piacere che la temperatura si sta alzando di qualche grado. No, insomma, a parte questi due giorni che la temperatura si è abbassata a causa di una perturbazione che arriva dal nord-est, però insomma dicono che, mi sembra di essere quello delle previsioni meteo, no, dicono che da dopodomani, da mercoledì, dovrebbe insomma arrivare un clima un po' più primaverile, quindi dovremmo rientrare un attimino nelle temperature di stagione e rimanere sui 15-17 gradi, quindi insomma una temperatura di sicuro interesse rispetto alle temperature che ci sono state fino adesso. E anche su al nord, io arrivando da Milano, figurati, faceva un freddo polare, un vento che ti affettava la faccia, guarda, non ti dico, infatti si scappava dentro i locali per ripararsi dal freddo. Comunque andiamo avanti con la nostra bella classifica e partiamo adesso realmente con la numero 20, dove troviamo lui, Pitbull, International Love. You can't catch me, boy. I'm overseas at about 100 G for show. Don't test me, boy. Cause I rap with the best for show. 305 to the death of me. Cremate my body, let the ocean have what's left of me. But for now, forget about that. Blow the whistle, baby, you the referee. You put it down. Down everywhere, everywhere, everywhere. I don't play baseball, but I've hit a home run everywhere, everywhere. I've been to countries and cities I can't pronounce, and the places on the globe I ain't know existed. In Romania, she pulled me to the side, on my pit. You can have me and my sister. In Lebanon, yeah, the women the bomb. And in Greece, you guessed it, the women they sweet. Been all around the world, but I ain't gonna lie, there's nothing like Miami's heat. You got it down. I ain't talking credit cards, if you know what I mean. Here in Cuba, la cosa está dura, but the women get down, if you know what I mean. Here in Colombia, the women got everything done, but they're some of the most beautiful women I've ever seen. In Brazil, they freaky with big old booties and they thongs, blue, yellow, and green. In L.A., tengo la mexicana. In New York, tengo la boricua. Besito para todas las mujeres en Venezuela. Y en Miami, tengo cualquier. E questa era la numero 20, Pitbull, International Love, un nuovo pezzo del grande Pitbull che ogni tanto ne sforna sempre qualcuno grazioso. Bene, passato San Valentino che è stata una strage, passato Carnevale che è stata una strage anche lui, adesso cos'è che abbiamo? Ci sarà Pasqua, la prossima è Pasqua, sarà i primi di aprile se non sbaglio, giusto giusto va a cadere per il mio compleanno, se non sbaglio è intorno l'8 o il 9 aprile Pasqua, vero? Io faccio il compleanno il 12, quindi uno non fa tempo a fermarsi un attimo con queste festività che subito ne riparte un'altra, ma sapete qual è la verità, io non vedo l'ora che arriva l'estate, ragazzi, Antonio, Marco, che ne dite, Così ci andiamo a fare il programma in diretta, in spiaggia, e ci divertiamo un po' come l'estate passata, quante risate. Bene, andiamo avanti con la bella musica, passiamo alla numero 19, dove il nostro Antonio ci fa trovare Lioid con Dedication to My Ex. Baby, your number one fan belt. They are not important. I don't use a cordless microphone avoidant. They don't feel real to me. Me need real woman. Others built on me. You the primer on the line, being green box when I couldn't afford the Ford. Clean socks, scooting across the floor in your grandmama house. Hand on your mouth. You yap too much about the penny ante. This mechanic so uncanny. X-Men, X-Men, your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can't bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please. But can you bring a man to his feet when defeat is on repeat and they gon' put this man Grammys on the street? E questa era la numero 19, Lloyd con Dedication to My Ex. Io non dedicherei mai una canzone alla mia ex, come dice il titolo di questa canzone, perché insomma è un po' paradossale, insomma, se vi siete lasciati basta, insomma, dedicare una canzone sarebbe un po' superfluo, insomma, però devo dire che dal testo non è che era proprio amichevole. Comunque io adesso devo dare la linea alla regia per qualche istante, ma torno da voi tra pochissimo. Ciao. Resto fermo tra le onde mentre penso a te. Fuoco rosso, luce e rondine. Tra le foglie soffia un vento molto debole. Nel frattempo un fiore sta per nascere. Eccoci qua, a guardare le nuvole, su un tappeto di fragole. Ingiallita è tutto quel che ho. E non capisco se ridevi o no. Qui trafitto sulla terra, steso me ne sto. E abbiamo ascoltato la numero 18, Imoda con Tappeto di fragole. Dopo il tappeto si faranno anche un divano di banane e una credenza fatta di pere. Loro arredano così la casa, vanno da fruttivendolo. Noi andiamo all'IKEA, loro vanno da fruttivendolo. Bene, Pink Floyd torna nei negozi. The Wall, The Wall di Pink Floyd, l'opera rock più famosa del mondo, arriva nuovamente nei negozi in edizione rimasterizzata con inediti e rarità dal 28 febbraio. Amy Music pubblicherà le edizioni Immersion, Experience e LP di The Wall. L'edizione in box Deluxe Immersion comprende l'album rimasterizzato in digitale. Is There Anybody Under World Wall? While masterizzato in digitale. Mamma mia, non ci sto capendo più niente. Aspetta un attimo. Due CD di registrazione inedite, quindi mi raccomando. Bene, andiamo avanti con la bella classifica. Passiamo al numero 17, dove troviamo Sean Paul con She Don't Mind. Said the track on it, two more shot, now we in a hot panic. Two girl and I'm ready for jump on it. Two to my word and I'm ready for thump on it. Ready for run on it, ready for dump on it. Tag team in fire truck, we pump on it. Hands up high, we burning up the sky. We got the dance car crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a trance. My baby, she don't. time she a time it, girl. Same time I line me, I line it up for co-sign it. Prime me, I prime it, girl. This ain't a crime, I'm a climate, girl. Set the temperature, the climate, girl. Check the rhyme with me, I rhyme it. She combine it, this up for a private world. Questa era la numero 17, Sean Paul con She Don't Mind. Bene, io volevo finire di leggere la notizia di prima, caro Antonio, perché voi da casa purtroppo non lo sapete. Io quando parlo ho un countdown che mi dice quanti secondi mi rimangono prima che inizi la canzone successiva. Di conseguenza mi devo anche sbrigare a leggere le notizie. Però ci sono alcune frasi che sono totalmente in inglese che poi mi fanno anche incartare. Marco, se fai così è peggio, quindi stai fermo e torna nella tua caverna. Bene, io volevo finire di leggere la notizia di prima, che era quella sui Pink Floyd che torna appunto nei negozi, e sono due CD di registrazioni inedite con estratti dai demo originali e i demo di Comfortable Numb e Run Like Hell. Ecco, questa era la fine della notizia. Bene, possiamo andare avanti con la nostra bella classifica e passiamo al numero 16, dove troviamo lui, il numero 1 dei DJ, Bob Sinclair, Rock the Boat. You thinking, but I hope you thinking what I'm thinking, which is your head bobbling. Don't knock on doors, but your hope is my witness. I treat sex like it's physical fitness. Up and down like the stock market. Now, baby, let me give you the business. Cara linda, pecho hecho. Ay, que rica, ale chica. Pelo lacio, mira eso. Dale loca, dame un beso. Questa era la numero 16, Bob Sinclair, Rock the Boat. Antonio, questa canzone la facciamo uscire dalla classifica, perché ho notato che quel cavernicolo di Marco con questa canzone va fuori di senno. Voi non avete idea di quello che ha fatto durante questo pezzo, veramente allucinante, io non lo riconosco. Da lunedì prossimo io verrò con una camicia di forza. Che taglia sei, Marco? Così la prendo anche su misura, perché guarda che non l'ho mai visto io combinato così. Guarda che Marco, no, veramente, io domani mi farei una visitina alla Neuro, perché se vuoi ti accompagno, eh. Guarda che io e Antonio ci siamo vicini in questo momento, per te è molto difficile. Bene, ma sì, mi piace vederlo bello allegro così, insomma. Ora io devo dare la linea alla regia per qualche istante, ma torno da voi tra pochissimo. avere l'impressione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che sei la ragione per cui io vivo, questo è o non è amore. Cercare un equilibrio che svanisce ogni volta che parliamo e fingersi felici di una vita che non è come vogliamo. E poi lasciare che la nostalgia passi da sola e prenderti le mani e dirti ancora: sono solo parole, sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole. Lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro, perché la nostra vita in fondo non è nient'altro che un attimo eterno, un attimo tra me e te. Sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole. Sono solo parole, Noemi era la numero 15 della nostra classifica. Fabrizio Moro, tre date anteprima del tour, è l'autore di Sono solo parole per l'appunto, il brano che ha regalato a Noemi il terzo posto al Festival di Sanremo. Ora Fabrizio Moro, vincitore dei Giovani a Sanremo 2007, compensa, sarà impegnato in un nuovo tour che parte da Roma, stazione Birra, con tre date, 1, 2 e 3 marzo. Attualmente il cantatore romano è impegnato nella lavorazione del nuovo album e noi facciamo tantissimi auguri a Fabrizio, sperando di vederlo al più presto con tanta bella musica come lui sa fare. Oh là, bene, caro Antonio, andiamo avanti con la bella musica, andiamo avanti con la nostra classifica, perché adesso passiamo alla numero 14, dove troviamo lei, lei che a me piace tanto, Dolce Nera, con Ci vediamo a casa, e lo spero. La chiamano realtà, questo caos legale di tu. Questa specie di libertà, grande cattedrale, ma che non vale un questa era la numero 14, Dolce Nera con Ci vediamo a casa, nuovo pezzo della cantante in miniatura, sì, perché è tutta piccinina ma tanto graziosa, e poi c'ha una voce, ragazzi, quando canta lei è pianoforte, non serve nient'altro. Dolce Nera con un pianoforte vi tiene in piedi una platea, ragazzi, veramente bravissima. Comunque io volevo ricordare una cosa, perché oggi mentre leggevo le notizie sull'Ansa ho notato che per la Costa Crociere è veramente un anno leggermente sfigato. Se io fossi loro mi darei all'ipica, perché prima con Schettino lì all'Isola del Giglio, oggi ho sentito che ha preso a fuoco una nave nei Caraibi. Cos'è che è successo, Antonio? Sette ascelle, che stai dicendo? Sette cosa? Ah, le Seychelles! Alle Seychelles, grazie Antonio per il suggerimento molto fisico, più che altro. Sì, ha preso a fuoco a quanto pare una nave della Costa Crociere, quindi caspita, per la Costa Crociere è veramente un brutto anno, una brutta annata. Io penso che avranno parecchie disdette, ma cosa starà succedendo a questa compagnia che insomma era tra le migliori al mondo? Comunque lo vedremo. Adesso vi faccio ballare, vi faccio saltare un pochettino, perché al numero 13 troviamo lei, la bellissima, l'esplosiva, l'unica Rihanna, We Found Love. Questa era la numero 13, Rihanna, We Found Love, aiuto! Antonio, io sono seriamente preoccupato per Marco, cioè stasera non è normale, ma cosa gli avete fatto? Cioè è isterico, c'ha l'argento vivo addosso, arriva qua, fa il pazzo, poi se ne scappa, è uscito dallo studio, mi ha spento la luce, non vedevo più il testo, cioè ma veramente, è carichissimo stasera, non è che hai preso il Viagra, no? Complimenti! Bene, che facciamo? Andiamo avanti con la bella musica, la nostra bella classifica? Assolutamente sì, perché qua in diretta su CRM Happy Radio con Spirit Top soltanto bella musica, quella che piace a voi e soprattutto quella che ci prepara il nostro grande DJ Antonio Glorioso. Marco, non ballare la Macarena che non c'entra niente. Lo leghi per favore alla sedia? Guarda che chiamo la neuro veramente, Comunque, andiamo avanti con la classifica e passiamo alla numero 12, dove troviamo Giorgio insieme a Eros Ramazzotti, Inevitabile. L'amore poi cos'è? Dammi una definizione. Combinazione chimica o è fisica attrazione? Mi sai dire tu cos'è? spiegazioni, non ci sono spiegazioni, e non è chiaro neanche a me. Si dice amore quando si accende. Sorprende prima o poi. Inevitabile, Giorgia insieme ad Eros Ramazzotti era la numero 12 della nostra classifica. Oh ragazzi, lo sapete, io e Antonio stavamo parlando di andare in crociera, perché ho detto vabbè, con tutti questi incidenti che sono successi sicuramente adesso le crociere costeranno pochissimo. Sì, effettivamente è vero, il problema è che non sono più rimaste navi della costa, ragazzi, stanno terminando tutte, ancora un po' veramente possono darsi a un altro, una sola ne è rimasta, no dai, non è impossibile. Marco, cosa dici? No no, sicuramente la loro flotta è provvista ancora di molte navi, però se continuano così entro l'anno mi sa che possono andare col gommone in crociera. Ecco, Marco mi ha realizzato un'opera d'arte, ha fatto con le sue stesse manine d'oro una barca fatta di carta. Ecco, la facciamo vedere, grazie Marco. Eccoci, la mettiamo qua, la facciamo vedere alla regia, perfetto, questa l'ha fatta Marco. Bene, andiamo avanti con la bella musica e passiamo alla numero 11, dove troviamo lui, il mitico Noel Gallagher con Aka What's Alive. I'm gonna take that tiger. Questa era la numero 11, Noel Gallagher con Aka What's Alive. Bene, noi abbiamo realizzato, il caro Marco ha realizzato, non so se la vedete in streaming tramite il web, questa nuova nave da crociera che è molto economica, infatti si chiama Costa Poco e noi l'abbiamo battezzata questa sera. Se avete modo di vederci in streaming vedete anche questa fantastica imbarcazione dalla linea molto sobria, esteticamente fantastica, non affonda ed è collaudatissima, Costa Poco è anche il nome della nostra imbarcazione di estremo lusso, 8 stelle e una cometa. Quindi mi raccomando, noi però abbiamo deciso che anche se la Costa Poco è un'offerta vantaggiosa, costo cavolo che andiamo in crociera. Bene, una notizia veloce veloce, i Cranberries a luglio a Roma, i Cranberries, i pirotecnici irlandesi di Zombie Promise, dopo tante riunioni, scioglimenti e separazioni consensuali, tornano a Roma quest'estate. Il gruppo simbolo degli anni 90, il 2 luglio, sarà sul palco della cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Dolores Dordian, Noel Hogan, Mike Hogan e Fergal Lavrar sono stati super ospiti internazionali della serata finale del Festival di Sanremo. Bene, andiamo avanti con la bella musica e passiamo alla numero 10, dove troviamo questo pezzo, ragazzi, che a me fa impazzire, ce lo porteremo avanti per tutta l'estate, ci farà saltare e ballare in tutti i locali d'Italia, perché lui è l'unico, il grande Solo Avicii con Liver. Abbiamo ascoltato la numero 10, Avicii con Live. Sapete qual è il bello di questa canzone che a me piace tantissimo? È che in 3 minuti e mezzo di canzone dice 8 parole. Fantastico, e ha fatto i milioni, oh ragazzi, è incredibile. Complimenti! Bene, è di Emma il brano più venduto di Sanremo. Non è l'inferno di Emma il brano più venduto di Sanremo. In testa alla classifica GFK dei download digitali ed è una delle canzoni più trasmesse dalle radio e ce l'abbiamo anche noi in classifica. Anche l'album Sarò Libera, uscito a settembre su etichetta Universal, è in salita al numero 6 della classifica, dopo 22 settimane di permanenza ininterrotta. Complimenti a Emma allora. Bene, io adesso devo dare la linea alla regia per qualche istante, ma torno da voi tra pochissimo. Aspettate. Era la numero 9, Beyoncé, Love on Top, fantastico pezzo della bellissima cantante Beyoncé. Bene, avete modo di vederci in streaming e quindi potete anche notare che abbiamo fatto le rifiniture di lusso, la nostra imbarcazione costa poco. Adesso, come potete vedere, la vernice si è asciugata, quindi anche il nome della nostra nave da crociera è ben visibile anche da lontano e anche tramite la webcam che abbiamo qui di fronte. Bene, questa è stata collaudatissima, penso che questa imbarcazione di lusso sarà anche l'unica che il nostro comandante Schettino potrà comandare dall'immediato futuro, insomma. Dicevi al pilota automatico, la vuole comandare il nostro Marco. Ah, perfetto, il comandante sarà Marco Nicolosi. Io posso fare il mozzo. Io faccio il mozzo e Antonio gli facciamo fare cosa? Il primo ufficiale, dai. Ah, fantastico, abbiamo l'equipaggio, quindi possiamo partire con la nostra nave da crociera, costa poco. A breve metteremo anche banderemo un concorso per vincere una crociera di una settimana su una delle nostre imbarcazioni, perché ancora voi non lo sapete, ma il nostro caro Marco sta preparando una flotta intera di navi della costa poco. Ah sì, ecco, perfetto, Marco ci tiene a ricordarci che il viaggio sarà solo andata, quindi per il ritorno vi dovete anche organizzare da soli, il ritorno è fai da te, quindi i viaggi di costa poco sono solo andata. Senti, io ragazzi, io stasera non ce la faccio più, andiamo avanti con la classifica per favore, passiamo al numero 8 dove troviamo Arisa con La Notte. Basta un raggio di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porto un dolore che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare, perché un dolore che sale fa male. Ora allo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte e resto sola con me. La testa parte, va in giro in cerca dei suoi perché. Né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore continuerà. Lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare, ma c'è il dolore che sale e fa male. Arriva al cuore, lo vuole picchiare più forte di me. Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta ed in un attimo esplode e mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è. Il sale scende dagli occhi, il sole adesso dov'è? Mentre il dolore sul foglio è seduto qui accanto a me, che le parole nell'aria sono parole a metà, ma queste sono già scritte e il tempo non passerà. Quando arriva la notte, e resto sola con me, la testa parte, va in giro, in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti. La notte, Arisa, la numero 8 della nostra classifica. Che bella questa canzone con la quale... No, Marco, dai, ti prego, sto cercando di fare il serio. Smetti di guardarmi e di ridere, di farmi vedere queste cose. La notte, stavo dicendo, di Arisa, una bellissima canzone di Sanremo. Che posizione è arrivata, Arisa? Antonio? È arrivata, era la numero 8. Bene, bene, bene, complimenti. Comunque dobbiamo salutare anche la gente che ci sta ascoltando da casa, ci manda i messaggini. Un saluto grande a Ilenia che ci sta ascoltando, e a Ilenia ci ha detto che vorrà essere la prima ad andare in crociera con la Costa Poco. Bene, cari Ilenia, io ti invito ufficialmente, sarai nostra graditissima ospite. Mi raccomando però, visto che il biglietto di sola andata, porta anche i braccioli e salvagente con la paperella, perché quello per legge ci vuole a bordo delle navi. Quindi ah, è affondata la Costa Poco, è caduta, è affondata la nostra bella nave. E vabbè, si vede che è destino che le navi debbano affondare in questo periodo. Va bene, andiamo avanti con la bella musica, con la nostra classifica. Passiamo al numero 7, dove troviamo Katy Perry, The One That Got Away. Summer after high school, when we first met, we make out in your Mustang to Radiohead. And on my 18th birthday, we got matching tattoos. Used to steal your parents' liquor and climb to the roof. Talk about a future like we had a clue. Never planned that one day I'd be losing you. Another life, I would be your E questa era la numero 7, Katy Perry, The One That Go Away. E nel frattempo continuano ad arrivare le prenotazioni per la nostra nave da crociera Costa Poco. Ricordiamo a Ilenia che lunedì prossimo deve venire a ritirare il biglietto, e anche Rachele che si è giunta adesso come nuova prenotata per la Costa Crociere. Mi raccomando, venite puntuali a ritirare il biglietto, perché poi ci sarà il check-in per l'imbarco. Bene, Adele torna in vetta alle Hit Parade. Stenta ancora a farsi sentire l'effetto Sanremo sulla top 10. Adele, dopo il trionfo dei Grammy and the Brit Awards, si riprende la vetta con 21, spodestando i One Direction. Quinti sul podio Ramazzotti con Best Love Song e Tiziano Ferro con L'amore è una cosa semplice. Unica new entry Gigi D'Alessio, quarto con Chiaro, mentre decimo Facciamo finta che ci sia, vero di Celentano. La classifica dei singoli più scaricati ricalca invece il podio di Sanremo: Emma prima, Arisa seconda e Noemi terza. Bene, andiamo avanti con la bella musica e passiamo alla numero 6, dove troviamo lui, un grandissimo, David Guetta con Titanium. Nuovo numero 6, David Guetta con Titanium. La regia mi ricorda di dire anche che le nostre crociere Costa Poco sono soltanto per gli ospiti che non sanno nuotare, perché ci pensiamo noi a insegnarli da nuotare a fine crociera. È un corso di sola pratica, che praticamente o impari o impari, perché poi il resto della crociera si farà praticamente a nuoto. Bene, nuovo album per Norah Jones. Norah Jones ha fissato per il 2 maggio l'uscita di Little Broken Heart, il nuovo album prodotto da Danger Mouse. La Jones ha inoltre rivelato la copertina dell'album e la tracklist di 12 canzoni originali coscritte da lei e Burton. Norah ha tratto ispirazione per la copertina dall'album dai poster di vecchie pellicole che adornano lo studio di Burton a Los Angeles. Benissimo, andiamo avanti con la nostra classifica e passiamo alla numero 5, dove troviamo lui, il romanticone Francesco Renga, con La tua bellezza. Mentre aspetto che tutto finisca e ti guardo perché sei perfetta, sei la cosa che più mi spaventa. mentre togli il vestito di fretta, non rimane che la meraviglia che la tua pelle nuda risveglia. Sto precipitando, amore mio, come la pioggia sul tuo viso, come il cielo quando crolla all'improvviso. Se la tua bellezza sull'ultima giostra, come sopra due metri di onda, ogni mio desiderio si incendia. Stanno rotolando, amore mio, queste stagioni. E questa era la numero 5, Francesco Renga con La tua bellezza, canzone che il nostro Marco vuole dedicare a Ilenia che ci sta ascoltando e che deve venire lunedì prossimo a ritirare i biglietti. Adesso mi raccomando Ilenia, vieni, perché sono anche curioso, considerato che Marco ti ha dedicato questa bella canzone, insomma vogliamo, io e Antonio vogliamo assicurarci insomma della tua bellezza, vero Marco, vero Antonio? Grazie, loro annuiscono sempre, dicono sempre di sì. Bene, Noemi si è sentita male due giorni prima a Sanremo, di colpo ho sentito il cuore fermarsi, mi mancava il respiro, ho iniziato a vedere appannato, i rumori intorno a me sono scomparsi, sudava freddo e ho avuto paura di morire. Questa è Noemi al terzo Festival di Sanremo e racconta così a Vanity Fair quello che gli è successo, che le dedica appunto anche a Vanity Fair la copertina del numero in edicola. Gli attacchi di panico di cui ha cominciato improvvisamente a soffrire due giorni dall'inizio di Sanremo. Beh, Sanremo fa anche questo effetto, insomma, ha avuto paura, un po' di panico, un po' di pressione, emozione, magari è successo così, ma sicuramente sta benissimo. Bene, andiamo avanti con la classifica e passiamo al numero 4, dove troviamo il Negramaro con Londra brucia. È tanto che cammini e non senti male ai piedi, ti seguo già da un po', guardi con due occhi neri e stanchi e non mi vedi e passi avanti. Ti seguo ancora per un po', chi l'avrebbe detto prima che io un giorno sarei andato dietro a te, come quando un uomo cerca di io, questa corsa non ha senso se il senso l'ho già perso dietro te. Vorrei odiarti un po', senza nemmeno amarti, e vorrei amarti poi, senza nemmeno conoscerti. E intanto Londra brucia intorno a noi. Hai, mentre Londra brucia, uccidi ogni sguardo su cui cadi. Io ti osservo già da un po' e ti perdi nei tuoi stessi occhi stanchi, e mi illudi e passi avanti. Forse aspetto un altro po', chi l'avrebbe detto prima che io un giorno avrei perso tempo dietro a te. Quando un uomo cerca di io, Questo era il numero 4, Negramaro, Londra brucia, Zilli e ora disco e TV con Panariello. Concluso Sanremo da vincitrice immorale, come si definisce lei stessa, Nini Zilli ha cominciato il tour promozionale del disco. L'amore è femmina, alla M-Fac di Milano, e ha raccontato i suoi progetti futuri. A marzo andrà in TV con Giorgio Panariello dal 5 marzo per 4 lunedì consecutivi. I due condurranno su Canale 5 un grande show di musica e intrattenimento, e ad aprile avrà inizio un vero e proprio tour che durerà fino all'estate, quindi avremo anche il piacere di vedere la Zilli insieme a Panariello, sicuramente ce ne saranno di tutti i colori. Bene, ma andiamo avanti con la nostra classifica e siamo arrivati sul podio e adesso abbiamo la numero 3, la posizione di bronzo della nostra classifica, dove troviamo Emma con Non è l'inferno. Per il mio paese e mi ritrovo a non tirare a fine mese in mano a Dio le sue preghiere. Ho giurato fede mentre diventavo padre, due guerre senza garanzie di ritornare, solo medaglie per l'onore. E se qualcuno sente queste semplici parole, parlo per tutte quelle povere persone che ancora credono nel bene. E se tu che hai coscienza guidi e credi nel paese, dimmi cosa devo fare per pagarmi da mangiare, per pagarmi dove stare, dimmi che cosa devo fare. No, questo no. Questa era la numero 3 della nostra classifica, la nostra posizione di bronzo, Emma, Non è l'inferno, vincitrice di Sanremo. Tra l'altro ieri sera ho avuto modo e il piacere di vederla da Chiambretti, dove ha cantato appunto il suo successo Non è l'inferno, veramente in gamba. Comunque si vede che era emozionatissima, perché insomma è una ragazza, è molto giovane, di conseguenza si vede che aveva gli occhi pieni di emozione, e comunque per lei questo successo è stato anche un pochettino inaspettato, ma sicuramente meritatissimo. Bene, andiamo avanti con la nostra classifica e passiamo alla posizione d'argento, la posizione numero 2, dove troviamo la fantastica e bellissima Madonna con Give Me All Your Loving. Don't questa era la numero 2, Madonna, Give Me All You Lovin', fantastico pezzo della intramontabile, lei è l'unica regina del pop a livello mondiale che non si ferma più, insomma, è da anni e anni ormai che sforna successi e rimarrà un mito negli anni, questa donna fantastica. Bene, adesso noi siamo arrivati alla fine della nostra classifica, anche questa settimana siamo ormai arrivati all'ultimo pezzo, caro Antonio, perché siamo arrivati al momento di presentare la numero 1, la posizione d'oro della nostra classifica, vai con la jingle! Il disco più trasmesso della settimana su CRM Happy Radio, la numero 1 della Speedy Top. E lei, la numero 1, Michel Teló con Ai se te pego, Ai se ti prendo! Se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada. Começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, treba! Sábado na balada, o quê? A galera começou a dançar. Comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. E questa era la numero uno, posizione d'oro della nostra classifica, il grande Michel Teló con Ai se te pego, che significa E se ti prendo, un pezzo che veramente sta spopolando in tutte le radio, in tutti i locali, e ce lo porteremo avanti veramente per tutta l'estate. Io già mi immagino quest'estate le belle coreografie delle ragazze sulla base di questa canzone spettacolare, vero? Bene, io adesso devo fare i saluti, voglio ringraziare alla parte tecnica quel travestito di Marco Nicolosi, alla regia, al nostro mitico DJ Antonio Glorioso, tutti voi che ci avete ascoltato da casa, in macchina, in giro, con i telefonini. Un saluto anche alla nostra compagnia, la Costa Poco, che è nata questa sera praticamente. Un saluto a tutti, un abbraccio, alla prossima, ciao bella gente! La musica nuova è su CRM Happy Radio. Ero lì che stavo bene, ero solo con gli amici. È un tratto tu, sì tu, spiegami perché. Da quando ho incontrato te, tutto è diverso. Non volevo più restare a pensare alla mia vita. Non volevo, perché è troppo tempo ormai che ho chiuso la ferita. E adesso guardami, sono più forte di te. soli pian piano. E anche se cerco di scappare in vano, o mi allontano dalle stelle, e adesso guardami.